Canale 10, c'è nessuno in ascolto? Ciao Carlo. Hola, buonasera Giannino. Ma le fuori della questa non sono Gianni, Carlo. Oh, scusami Franco, perché sono in macchina e quindi sono in mezzo agli alberi qua e quindi avevo sentito via vai il segnale. Mi sembravi Gianni. No, negativo, negativo. E dove sei, Carlo? Adesso sono alla fine di via Marghinotti. KK. Bene, mi ascolti, sì. Sì, adesso forse è chiaro. Sto finendo, adesso salgo in via Sotto. Eia, ho capito, vai. Non mi interessava, la radio ci andava bene. La radio è Super 5, segnale qua mi dai fondo scala, non so dove tu sia, se sei in macchina o a casa, fra. No, io sono a casa, sono in stazione fissa. Ah, eccolo, adesso sì, segnale forte forte, fondo scala, radio va benissimo. Io sono in macchina, sto trovando un'antenna che ho preso ieri, usata. Arrivi benissimo qua. E adesso dove c'è l'ufficio postale, via, cos'è, via Boggino questa? Capo, non lo so a che altezza sì, più o meno. No, non che altezza sì, al monte. Sì, quasi alla fine di via Boggino. E allora sì, al monte basso, là. Io sono monte alto. Capo, adesso sono giù al semaforo ed è verde pure, me. Così ci faccio dritto. E sono quasi corso Trinità. Ma stai andando a lavoro? Sì, alle 4 devo essere al lavoro e quindi sono in perfetto orario. Va buia, va benissimo. Ehi, ami, provando, questa è di quelle antenne tipo frusta, senza nessuna regolazione, cioè ce l'ha la taratura, di la verità, però non in punta ma in fondo. Ed è circa un'ottantina di centimetri. È tipo quella che ho io, deve essere. Sì, per città diciamo che va bene, perché per adesso ho avuto modo di provarla in città, ieri da Freddanietta, parlavo tranquillamente, insomma, con la zona Monte, da casa, dalla zona alta ho parlato con Giulio e quindi diciamo per la città va bene, non so come si comporta una volta fuori sulla strada. Quella devi provare come va. Ma diciamo che questo tipo di antenne, il loro lavoretto l'hanno sempre fatto abbastanza bene, dai. No, ma già vanno bene qua, vanno alla grande. Cavolo, sto guardando, avevo la macchina al sole, mi segna 26 gradi, cioè i finestrini aperti, è bello caldo il sole. È una bella giornata oggi, alla grande. Invece i giorni scorsi stava facendo un po' di fresco, anche se non era molto nuvoloso, però ogni tanto usciva anche il sole, ma la temperatura era più bassina. Oggi invece proprio giornata di primavera piena. Proprio una bellissima giornata, alla grande, sì sì. E in macchina ce l'hai sempre la radio, fra? Capo di positivo, adesso sto usando il 680K. Già è una bella radio. Col suo microfono da capo, con l'MC60, dai. Ho capito. Io mi sono preso una radio nuova perché l'altra ce l'avevo in riparazione e me l'hanno anche aggiustata. Praticamente la radio non aveva niente, si era bruciato il pulsante d'accensione e spegnimento. Ho capito, magari era surriscaldato e si è bruciato per quello. Esatto, così mi ha detto, cioè a vederlo me l'ha restituito quello che ha cambiato, sembrerebbe nuovo, invece lui mi ha detto così, Albino, che me l'ha aggiustata a Borole, mi ha detto che l'ho ritirata e che praticamente ha surriscaldato come hai detto tu e si è bruciato. Sicuramente con lineare lo stavi pilotando? Ogni tanto lo attaccavo, non più di tanto però, non più di tanto, molto probabilmente magari è successo per quel motivo. Sì, troppo assorbimento con lineare te l'ha bruciato, sì sì, al 100% è quello. Praticamente me ne sono preso un'altra più performante rispetto a quella che avevo, grosso modo è simile, ma qualcosina in più. più, tipo l'effetto eco, alcune regolazioni in più. Ho preso quelle CRT SS 9009, l'ultima versione V4, e si comporta bene come radio, No, vanno bene, sì, ho capito qual è. Quello che c'è ai 10 metri? Sì, esatto, solo che l'ho presa già, è stesa già tutto. Ho capito, sì. C'ha anche la potenza regolabile, praticamente va da 2 watt sino a, in SSD mi dà 50 watt direttamente la radio. 30 watt in AM, lì non hai bisogno neanche di lineare. No, infatti l'ho presa anche per quello, perché così almeno non ne uso, se proprio mi serve in banda laterale per qualche mix che faccio, che mi serve un pochettino di potenza, giro il pulsantino, capito, e la porto su un altro po', giusto quello che mi serve. Si conferma, in definitiva conviene fare così, perché altrimenti ne soffrono troppo. No, io sto uscendo liscio, sto uscendo con 10 watt. Va benissimo, io sono iniziato la 4 corsie, ho prepassato con Forama, diciamo, e ho imboccato la 4 corsie, la prima salitina che c'è, e qua mi arrivi a bomba ancora, fra. 10 watt modulati. Sì. Ok, anche tu stai arrivando bene, un Santiago 9 a 9,5 ancora, dai. Vuol dire che già va bene questa qua, vediamo. Io sto uscendo con una quarantina, perché c'ho anche a lui attaccato. Ah, ecco, vabbè, lì con quell'apparecchio lo puoi attaccare, non succede niente. Infatti, questo diciamo che è un... non mi ricordo che marca è questo apparecchietto che ho qua. Poi io ho anche il Magnum, l'S9, non so se lo conosci. Sì, ho capito qual è, ho capito. Questo è uno ZG, diciamo quello piccolo, dai, più di 40-50 watt. Ah, è lineare, vabbè, io ne ho uno da 300 qua. Vabbè, io diciamo che non lo uso più di tanto, l'ho staccato completamente, ce l'ho fermo a casa, quello da 300, lo puoi pilotare anche in macchina, solo che il problema è la batteria, se c'è la macchina in moto va bene, perché altrimenti non vale la candela, capito? Ti stai cominciando a abbassare il segnale. Adesso sei sceso a 5 di segnale. Santiago 5. E vabbè, ancora già ti ascolto bene. Non ci sono problemi. No, negativo, io stavo sistemando alcune cosette, ti ho sentito e sono entrato. Adesso provo ad attaccare il Magnum a vedere. Buonasera, dove sei arrivato, Carlo? Bipio di bancari, ho capito. Sì, c'è propagazione discreta che interferisce, diciamo, un pochino. Ciao anche a Franco. Ciao Marco, buonasera. Questo è il Magnum. Questo è l'S9, ho Marco, è pilotato col Tanner più 3. Una discreta modulazione, anche prima andavi bene, però anche questa è bella, dipende dall'orecchio e dall'apparato. Cappa, guarda se senti ancora Carlo. Carlo, vai avanti. Sì, adesso sono proprio al video. Sì, Allora, 6 e mezzo, quasi 7. Vai Franco. QSL, dai, riprendo io. La modulazione è qua, 7. E radio sempre 5. Volevo sapere, Marco, da te come sto arrivando? Bene, va bene come modulazione. Sì, bene. Bella presente. Ovviamente fondo scala che di più non va, non va di più. 9.30 inchiodato. Vabbè, lo sto pilotando con pochi watt, Marco, lì. Non sto uscendo, ripeto, con alta potenza. 5 watt modulati, ho possibilità di portarla a 50, però va bene così. Ok Carlo, non so se mi ascolti ancora, vai. Sì, Franco, che ti ascolto, forse chiaro ancora. QSL, adesso ho aumentato un po' di watt in più, quindi dovresti ascoltarmi ancora meglio. Ok Marco, adesso lo sto pilotando con 10-20 modulati, dai. In ingresso vuoi dire, di uscita quanti? No, all'ingresso sto usando gli appelli praticamente fatti sui 4, aumento 10, picchiata quasi a 20, c'è una bella modulazione. Ok, sì, la radio, no, io sono aiutato, diciamo, dai, perché sennò non mi sentirebbe Franco. Carlo, scusa. No, vabbè, io sto utilizzando i vati su, io ho Marco, però devi concedere picchiata a 20 perché sto usando un Tanner più 3 da tavolo, adattato appunto su questa radio qua. Comunque Marco, anche a te ti sento un po' chiaro qua, radio su 5, io ti sento molto, molto bene qua. Io premetto che sto usando sempre il mic originale della radio, il mic originale del presidente, che è a condensatore K. E il segnale tuo è 7 attualmente, Carlo K, vai fra. QSL, stesso segnale anche per me, Santiago 7 e radio sempre 5. Guardate, riesco a tirarlo abbastanza bene. Non so Carlo, come ti sta arrivando con le coordinate? Sto cominciando a perderti, Carlo, è qua, ti stai un po' abbassando il segnale, non so se Marco riesce a tirarti fuori, vai Marco. Appena, perché purtroppo c'è roba Santiago 5, 5 e mezzo, anche 6, ed è roba di propagazione mista a QRM elettrico, quello che è. Purtroppo questi baracchini sono rumorosi, questi nuovi SMD qua, prendono di rondezza. La prossima volta proviamo col 3009, che è una ricezione più pulita, K. Si conferma, Carlo, no, io poco fa stavo pilotando appunto col 680, Sta parlando? Lo sento, ma molto basso. Vai Carlo. Ho copiato, rettilineo tutto bella, sì, segnale 6, Santiago 6, però c'è la roba che arriva a 5, 5 e mezzo là, tutti i segnali di fondo, quindi Carlo io ti saluto nel caso che non ci sentissimo, ritieniti già salutato, ok, buon lavoro, buon proseguimento di serata, idem con patate per Franco, là io sono in cucina che sto cucinando qualcosina. E quindi un saluto festoso a tutti e buon proseguimento di serata. K, vai fra. QSL, dai, riprendo io. Ciao Marti, anch'io stavo facendo alcune cosette qua. Ok Carlo, dai, io ti saluto, buon trabacco, buon tutto e ce la riascoltare prossima. Ciao Marco, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao a tutti. Ci sei ancora? Sì, per curiosità, tu col tuo apparato quanto hai di QRM? Perché io ho qua 5, anche 5 e mezzo, e non è solo QRM, è anche mista segnali di propagazione, una voluta, ed è sempre così. Allora, io qua RM qua non ne ho proprio niente, Marco. Allora sono questi apparati, ma tu non senti anche questi segnali di propagazione, anche fugaci, no? Qua è una Bulutu, hai una Bulutu qua. Sì, col 3009 migliora molto come col RM, però poi se c'è la propagazione lo stesso, i segnali bassi me li castra, capito? E tutti così sono questi apparati, sono molto corremosi. Io mi ricordo che negli anni 80, quando non c'era propagazione, c'era un silenzio di tomba, non c'era bisogno nemmeno di squelch, non sentivi neanche il soffio del ricevitore, era di una pulizia negli anni 80 incredibile. Adesso il confronto tra computer, switching, chissà cosa che altro, ma la sorte, siamo immersi nel QRM elettrico. Sì, io ci confermo. No, io oggi non ne ho QRM alto, diciamo che va bene, è tutto qua, cava, sì. Però a volte mi capita di sentirla anche io. Vabbè, io sto usando un Magnum, un S9, glielo conosci. Ed è già migliore quello, perché quello mi pare che ancora ha i componenti classici, è della vecchia scuola, no? Componenti classici, però questi moderni, questo è un President piccolino, tipo omologato, 40 canali, President Taylor, quarto. Però anche in macchina è un mondezzaio, è la fabbrica dei rumori, allucinante. Ricorda, sai cosa? L'FM500S, ti ricordi? 548SX, cioè qua quando non c'è QRM vero, esterno, il QRM arriva a 3, cioè tu accendi, il ricevitore ti segna già 3 di soffio di fondo, capito? Di suo e non di QRM esterno. E quindi capisci che se già è 3, non so se l'hai avuto il 500S, tu lo accendi senza procurare neanche di notte tardi, no? E segna 3 di QRM, di robaccia, ed è il ricevitore suo che fa quel rumore, capito? E si conferma, sì, ce l'ha avuto Marco lì, quello lì, tre nome di mondezza. Addirittura io qua c'ho l'Ara 68, già lo conosci, quello bello con i canali sotto, sopra. È stato modificato questo qua, poi c'ho un altro 48, no, quello è 68, poi c'ho il 48 che c'ha la scheda Colt, tutta quella, ma ce li ho ferme questa radio, non li usa mai. Poi c'ho un vecchio Sommerkamp, un 23 canali, e poi c'ho, cosa c'ho qua? E l'altro un Cobra. E poi anche roba seria, naturalmente. Dove volevo arrivare però, di apparati, di radio, baracchini, ma adesso mi è sfuggito, dai, vabbè, mi verrà in mente. Io c'ho il Cobra qua che è molto bella, non prende neanche mondetta, va benissimo la radio, diciamo che è una bella radio. Sì, ecco dove volevo arrivare. Allora qui da quando hanno messo il ponteggio, sarà che il metallo, cosa ne so, fa da non voglio dire cavolate, è aumentato il QRM elettrico da quando c'è il ponteggio, è come se attirasse la mondezza, cosa ne so io, come facesse da elemento passivo, non so come dirtelo. È un po' di mondezza, Adesso volevo provare questo Magnum, questo Cobra, vedete come esce. Mi dai un secondo? E provo, dai, nel frattempo metto la roba in forno, vai, cambia apparato. Prova, 1, 2, 3, prova. Autoascolto, prova, 1, 2, 3, prova, funziona, ok. Ora la cipolla, ora la cipolla. 1, 2, 3, hola, sì, ok. Vai. Dopo Marco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è il Cobra. Eia, aspetta che tolgo il noise blanker per sicurezza, vai un po', sembra molto molto forte di radio questo, molto. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ma prima eri molto più forte di brutto di segnale, poi c'è molta radio, però il segnale è sceso a 9,15, può essere? Sì Marco, perché questo da 5 watt, massimo 6 watt, no di più perché è omologato, capito? È quello che stavo dicendo. Eia, però c'è una radio bella spinta, fammi vedere il segnale bene, prima la porta tenuta e dopo inizia, fai un fischio per esempio. No, sembra 9.5 modulato, ho fischiato 9.10 pieno, quasi 9.15 ma non ci arriva. Caspita, c'è una differenza notevole, prima eri 9.30 incollato, prima eri sicuramente sotto pressione, dai, diciamo. Va bene Marco, questo è quello omologato, il Cobra, quello, vabbè, c'è un bellino a Parigi. Quello bello con l'aspetto digitale, tipo il 29, l'X. Quale positivo? C'è il display azzurro, rosso, tutti i colori fa, blu. Bello, quello piaceva a me molto. Poi ho detto, tutti questi apparecchi alla fine. E poi avevo optato piuttosto per un apparecchio completo, anche con la SSB, cioè tutto, MFM SSB. Però quello era molto bello, mi piaceva. Ah, io lo stavo cambiando. Lo volevo cambiare con, ma come si chiama? Quello 10 meter, lo voleva uno cambia e cambia, non l'ho dato praticamente. Vabbè, se un apparato ti piace lo tieni, dai, se un baracchino ti piace lo tieni. D'altronde io inutile, per esempio, qua che ne venda. Se poi me ne pento, so già che alla fine mi mangio i soldi e me ne pento, me li tengo direttamente, me li tengo, dai. Ma infatti, io questo avevo l'intenzione di cambiarlo appunto con uno di quelli, capito? È bellino, già lo conosci questo qua. Sì, sì, ce l'aveva uguale, proprio room, magari lo stesso. E poi l'hanno fatto arrivare in Italia proprio col contagocce, edizione limitata, ben pochi ce l'hanno. E io me lo sono fatto sfuggire, ma poi te l'ho detto, ho optato per un apparecchio con la banda laterale pure, più completo, da. Ok. Vabbè, io adesso vedo un po' di tenerlo, secondo me al limite lo cambio, è nuovo e comunque. Non c'è un graffio, è nuovo di pacca, di lusso. Lo vogliamo provare in FM per vedere come va? Cappa. Test 1-2-3, speriamo che vada bene questo in FM. Cappa. Qua vabbè, un po' più bassa la ricezione. La FM qua la sento più bassa, però è chiara, sembra una telefonata, capito? Eccomi qua, adesso sono nudo e crudo, 4 watt. Il segnale com'è? Il segnale reale, guarda un po'. E siamo lì, tu sei un po' più alto, dai, 9.15 qua. Praticamente io con questi microfoni amplificati ogni tanto mi si azzuffo perché allora l'MB più 5 no, io lo posso mettere, cioè gli adattatori, lo posso mettere su quasi tutti gli apparati, però con uno ci vuole tona 5, con uno ci vuole tona 3, con uno ci vuole tona 2, oppure il volume con uno lo devi mettere a 4, con uno lo devi mettere a 6, insomma alla fine mi purio e mi tengo il mic originale, capito? Preferisco magari qualche watt in più, però il mic originale, così non sto sempre a toccare alfa, bassa, tono, alfa, bassa, capito fra? Quello lì era il tifona. Poi su qualche apparato, per esempio, se lo metto vicino a un apparato l'amplificato mi fischia, perché l'apparato c'ha, diciamo, anche se l'autoascolto è spento, da me non proprio spento, in AM li fa sempre un po' da monitor leggero, quindi se tu avvicini l'MB più 5 trasmetti vicino all'apparato, al 6009/5005, mi fischia un po' e lo devo allontanare un bel, e allora piuttosto che rompermi le scatole sempre. Metto il mic originale che alla fine la timbrica è sempre la migliore, la più fedele, dai, e non c'hai effetto stanza, non c'hai rimbombo, non c'hai modulazioni o gracchiate o acuste o cupe eccetera. Adesso attaccato alle Sommercam. A meno che non sia una cosa magari che ti piace così tanto che magari anche se ci perdi però il cambio ti piace lo stesso, capito? Dipende che Sommercam è quello, perché ce ne sono un sacco in giro, un sacco di modelli, dai. Tokai, vabbè, Tokai è molto, molto semplice, molto primitivo, dai. Ma il Tokai qual è? Il solito quello con la mascherina, col bordo in gomma, il tastino per il fischio. Il tastino Cal, quello va bene per mettere la portante. Come faceva Ottavio con Paoletto, con quel Sommerga, quel fischio era deleterio. Caspita, mamma mia, mi sembra una vita quando ero entrato, che ero 13enne, 1984, ma ti rendi conto, fra poco sono... Quindi guarda, meglio non pensarci. Va bene, adesso ripassiamo in AM, io procedo con l'operazione in cucina, dai. Gli accappa, dai, io ti saluto Marco, al limite se coincide, ci aggiorniamo stasera, dai, grazie per i controlli, è tutto qui, dai, comunque. Comunque è una bella radio questo qua, questo c'ha la radio più spinta delle altre. Sì, è un bel apparecchio, un bel apparecchietto. Anzi, ti dirò che appena lo compri è tutto chiuso, no? Di modulazione, tutto soft. Però poi come c'è un bel trimmer, il trimmer è grande, c'è il trimmer classico, dimensioni classiche a tempo il 3009, quindi lo metti a manetta e è un bonbon. Va bene, ciao Fra, buon proseguimento di serata, ci sentiamo quando capita, eccetera, eccetera. Piuttosto, beh, lo stai sfruttando quel ricevitore? Sempre spento, Marco, non lo sto neanche usando. E poi sai, per ascoltare è poca roba, cioè in chiaro parlo a 525 di solito, oppure quel canale con ripetitore, però per il resto le cose che di una volta che erano interessanti, capisci, a me non ci sono più. Quello infatti, il discorso è solo quello. Vabbè dai, se ti interessa questo Cobra facciamo uno scambio, te lo guardi. No, una volta mi interessava, adesso poi l'ho sostituito, diciamolo, con tanti apparecchi più completi, dai, quindi per quanto bello però non lo prenderei più ormai, dai. Sì, vabbè, ma lo metto in macchina adesso per un po', dai. Solo se lo metto in macchina questo me lo rubano, via. Ah, ma da lasciare in macchina fisso, no? O se io dovessi lasciare qua baracchino antenna, mi si fanno baracchino antenna, macchina e tutto. Io ma infatti non le lascio in macchina. In macchina c'è un vecchio Intec di quelli vecchi solo in AM. Comunque in macchina certe volte, e almeno in zona estate, conviene mettere anche un apparecchio con la SSB, Fra, perché se tu vai dove c'è quella scuola lì a Scala di Ciocca, oppure se ne vai dove c'è quel campetto di calcio, dopo, come si chiama, dopo, salendo in alto, porca miseria, dopo il centro ecologico, c'è un campetto di calcio e a destra c'è una, mi pare sia una casa cantoniera, tu parcheggi lì, prendi certi segnaloni in banda laterale, puoi fare DX da lì, dalla macchina, è incredibile. Vabbè, lì magari è zona buona, magari è più zona buona di qua, di dove abito io. È molto molto in alto, credo che sia il punto più in alto, tra Scala di Ciocca e quello, è... credo che siano i punti migliori, K, molto più in alto di Piazza Le Segni. Magari è zona migliore di qua, ok, beh, infatti. Ma in definitiva posso mettere anche le 6-9 in macchina volendo. Sì, tanto se non lo lasci fisso, l'importante è lasciarlo fisso, perché sennò qua si ruberebbero tutto, poi qua stanno girando anche tossicomani, cioè non è una bella... No, non fa lasciare niente, capito? Bene, di nuovo Fra, buona serata, buon tutto, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Marco, ciao, buon tutto, e ce la riascoltare le prossime, dai, ciao ciao, anche io faccio un po' di cosette qua, se no non riesci a fare più nulla, ui ui, va bene, ciao. prova 1, 2, 3, prova test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Canale 10, chi c'è all'ascolto, cambio. Attenzione 10 per prova radio rapida, K. Prova radio, prova radio, prova radio. 1, 2, 3, 4, 5. Sta andando bene Marco. Chi sei, Franco? O Luca? Luca, ciao Marco. Oh, salve. Sì, il 3009 era fermo, non dico qualche settimana, dai, non tantissimo, però aspetta che vado nudo e crudo. Adesso sono nudo e crudo. Ecco qua, tutto a posto, nessun rumore strano, inneschi, alternate, saturazioni. 1, 2, 3, mic originale, 3009 e mic originale. No, tutto a posto Marco, tutto a posto Roggero. No, prima c'era Carlo che è andato a lavoro, no? C'era Franco e mi lamentavo un po' della rumorosità degli apparecchi moderni, no? Che arrivava a 5 il QRM, no? Però ti devo dire che in realtà anche con questo, allora in assenza proprio di modulazione di propagazione è 3 il QRM. Ribadisco che qua è aumentata col ponteggio, è aumentata la rumorosità elettrica, QRN, quello che è, insomma, dai. Quindi Santiago 3 senza modulazione, quando arrivano segnalini di propagazione arriva anche a 4 con picchi di 5, quindi diciamo si discosta un po', ma non in modo abissale, dai, da quegli apparecchi moderni, che sì sono un po' più rumorosi, ma ancora sono passabili, dai. Aspetta che mi chiama mamma Luca. Sì, fai, fai. Cacchio, stavo per sbagliare mic e premere il mic di quello senza antenna, del baracchino senza antenna, adesso lo spengo, prima di fare danno. Eia. Vabbè, 3009 è 3009, però è bello, le cose base, niente fronzoli, minchiatine, autoascolti, ok. Tutto ok, tutto ok. Eia. Stavo cucinando, ma questa roba non fa più, è porca paletta, adesso do un'occhiata, devo ancora pranzare io, cavolo, tutto ritardo oggi, boh. È qua a pranzare. Eia, certo non è più come una volta che pranzavamo alle 6 di sera, noi pranziamo alle 2 e mezza di solito di pomeriggio, no? Però oggi ho fatto troppo ritardo, troppo ritardo, eh. Chiappa. In giro eri, no? Brutto buco. No, ma che in giro, ho preso sonno dopo le 5 e mezza di mattina, dopo le 5 e mezza di mattina, quindi puoi immaginare. In più qua stanno facendo lavori, stanno battendo, trapanando, e quindi immaginati come posso aver dormito anche la mattina, male. Quando hai preso i lavori? No, no, no, non sono lavori condominiali, sono interni privati di altri condomini, non c'entra niente col 110 e simili. Perché sapevo c'era un casino con questo 110. E qua sono fermi, il cantiere è fermo da settimane, mesi, cioè da Natale non li vediamo, erano venuti solo a fare un po' di intona con il terrazzino, nel terrazzino, diciamo, la parte dove ti appoggi, là, dove c'è il parapetto, il baffa, non mi viene il termine, e poi scomparsi. Pare che lo Stato si stia scocciando di pagare ponteggi lasciati mesi o anni senza far niente, capito? perché sicuramente questi si aprono 10 cantieri, se non di più, e lavorano un mesetto in uno, un mesetto nell'altro, e nel frattempo qua stiamo occupando sede stradale, cioè siamo circondati di ferro qua, no? Non puoi aprire certe finestre, non le puoi aprire perché ti passa le cose davanti, cioè non puoi sporgere le persiane in fuori, mi ecco. Non mi pare che si bisogna di là e soffiare, oppure vanno a farsi altri lavori. Sì, sì, vanno a fare altri lavori, però non puoi lasciare i cantieri aperti. Guarda, c'è in Viale Mameli un palazzo, Viale Mameli, angolo via Gavino Matta, è mesi che c'è il ponteggio, sembra tutto fermo. E peraltro il palazzo è quasi anche pitturato, c'è questo ponteggio da mesi, boh. È un po' ambigua la situazione. Non perché poi che rischia sono i condomini stessi, capito? L'impresa, se questo 110% è un po' uno, se tu guardi tutte le cose che possono andare male, tutte vanno a ripercuotersi praticamente sui condomini stessi, non tanto sull'impresa. È una specie di tagliola questo 110%. Sono piccole irregolarità, cioè se ne sono infinite che manco una idea, che praticamente è come se stessi, come era quel termine, se stessi ipotecando la tua casa, capito? Sì, sì. E tu pensa che nel palazzo, non so se si pratica diverso al giorno, delle poste, dove ci sono le poste, gli hanno fatto togliere le vetrate ad agosto, e ancora giù così. Giù. E poi cos'altro? Boh. E poi te lo chiede, Luca, l'avevi poi guardato per curiosità quel documentario che ti avevo mandato sugli effetti da vaccino? Gente rovinata che ha finito di vivere. Hai visto chi con le gambe inutili, chi peggio anche? Infatti a me i dottori mi hanno detto lì è andata bene. Adesso sono in mano con l'avvocato. Devo andare a recuperarmi il foglio che ho firmato, capito? Ma detto lei si faccia dare questo foglio e se non glielo danno mi telefoni che ci penso io poi. Quello è che preoccupa lui, perché praticamente quando uno firma per farsi inoculare quello schifo, praticamente stai sollevando, mi pare, sia la casa farmaceutica, sia i medici, sia tutti da ogni responsabilità. È una cosa incredibile, incredibile. Mai vista una cosa del genere. Sì, perché era tutto via sperimentale, ma già stanno indennizzando. E allora bisogna approfittarne in fretta, Luca, chi ha avuto un danno vero si deve indennizzare in fretta, perché poi lo Stato potrebbe dire, signori, qua abbiamo indennizzato mezza Italia, i soldi sono finiti, andate in pace, quindi più in fretta lo fai meglio è, finché stanno indennizzati, perché poi potrebbero cambiare bandiera, comunque vergognoso, cioè non entri a lavoro se non sei vaccinato, non entri in ospedale se non sei vaccinato, quantomeno ti fanno il tampone che io non posso fare per motivi che non so spiegare qua. Vabbè, sì, si può dire, c'ho la cicatrice dell'operazione in fondo al naso, no? Dove c'è l'osso sfenoide, non c'è che qualche pilla, spinga un po' troppo col cotonfio che faccia danno, capito? Poi per entrare al bar il Green Pass, come se io stessi praticamente, cioè, io entro al bar per farli campare, perché se no il caffè me lo prenderei a casa, me lo potrei prendere a casa, per dire, è vergognoso, guarda. Quello sì, purtroppo è andata così, io tutti i giorni sto prendendo la vitamina B12, vabbè, e tutte le altre pastiglie che prendo per il nervo, cercare di, se no si sindrome di Ruduta, addio. Sì, boh, sperimentazione, dice, ma non lo potevano sperimentare su volontari, tipo quelli condannati, che ne so, a pene notevoli, dice, ti scontiamo la pena o te la annulliamo se provi questa roba, no, l'hanno provata sulle persone, così, come va, e tuttora c'è gente giovane che sta morendo, gente fisicamente perfetta, gente che faceva nuoto, palestra, tutto, gente giovane e perfetta, ma loro improvviso. però nessuno, né i medici, nessuno allude a quella roba lì, sembra che abbiano paura di parlare. No, i medici già hanno paura di parlare perché loro li castagnano, capito? Rischiano pure il lavoro. Sì, tipo regime, dai, un piccolo regime italiano. E purtroppo non ci possiamo fare nulla. Quanti medici hanno preferito il licenziamento piuttosto che farsi vaccino, ma finché ce l'avremmo in corpo siamo votiti, chi su è un macello? Questo poi io vorrei sapere gli effetti a lungo termine, cioè negli anni, se che ne so, la prole puoi trasmettere geni modificati con malattie, già capito, no? Questa roba potrebbe, soprattutto quello mRNA, che ne so io, se questa roba va a modificare parzialmente il DNA, anche in piccola parte, e poi magari uno ha figli con patologie nuove o comunque invalidanti. A conci siamo. Luca, devo correre in cucina, sento un odore strano, aspetta che c'ho la roba sul fuoco. Vai, vai, tranquillo, attenzione Giulio. Chiappa, chiappa, giusto in tempo, mi si era asciugata l'acqua, però per fortuna non ha bruciato niente. Ok, vabbè, adesso mi metterò a mangiare, quindi ci sentiamo quando capita. Buon proseguimento di serata, buon tutto. Buon pranzo anche a te, saluto a mamma. Ed è così, Marco, è un casotto. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Sicuro canale 10, c'è qualcuno in ascolto?